Cari amici, eccomi a commentare il Vangelo ambrosiano di domani, domenica, la domenica di Lazzaro. Non ho potuto farlo a messa così, perché ha predicato un altro sacerdote, però siccome qualcuno di voi anche si lamenta, dice: ma sono giorni e giorni che non ci dai più niente, ho qui davanti a me 3, 3, 6, 7 persone a me carissime che rappresentano tutto il popolo di Dio, e di fronte a loro io così vorrei commentarvi questo Vangelo. Noi sappiamo che la morte è un tema delicatissimo, è un tema che nessuno tocca, eppure che ci tocca tutti, no? E di fronte al quale io trovo tanta impreparazione. Per cui mi sembra che voglio guardare a Gesù, perché Gesù, di fronte alla morte che ci fa problema un po' anche a lui, no? Però lui me la risolve. Per esempio, ho visto, che nel Vangelo troviamo diverse risurrezioni dai morti, no? Beh, anzitutto la sua, sulla quale poi ragioneremo anche a Pasqua e così, no? E poi quando risuscita con la bimbetta di 12 anni, Talita cum, no? E poi quel figlio di una madre vedova, a Naim, c'era il funerale, no? Lui ferma. E poi la risurrezione di Lazzaro, quella di oggi, no? Che è un brano stupefacente. Ecco, io credo che se ci mettiamo di fronte alla morte, o ci mettiamo dall'ottica di Gesù, dal cuore di Gesù, se no la morte vincerà sempre su di noi, ci abbatterà, ci stritolerà, ci schiaccerà, come avviene per un sacco di gente che va in chiesa, che sembrano morire da pagani, che sembrano morire da pagani. Allora, se io guardo questo Vangelo, il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, trovo diversi particolari, insomma, che proprio mi piacciono tanto. Anzitutto, Signore, ecco colui che tu ami è malato. Un'altra traduzione diceva: il tuo amico, quello che tu ami è malato. Questa amicizia di Gesù con Lazzaro e poi con Marta, con Maria, che ricorre più volte, no? Io dico: Signore, vorrei essere anch'io tuo amico, no? E vorrei che tanta gente scoprisse la tua amicizia. Quanta gente, Signore, segue la religione cristiana, ma non segue la fede cristiana. Segue i gesti, vengono anche a messa, battezzano i figli, fanno le prime comunioni, ma non hanno incontrato il tuo amore. Non hanno incontrato il tuo amore. Io ti chiedo, lascialo a me il tuo amore e concedilo a tanti. E se vuoi che io sia anche un tuo strumento per loro, eccomi. Poi ci sono diversi altri passaggi, no? Per esempio, quando sentì che era malato, rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava. Che comportamento, noi diremmo, no? Noi appena sappiamo che uno dei nostri è in fin di vita, facciamo i pazzi per arrivarci e poi magari facciamo incidenti, no? Perché. E invece Gesù se la prende calma, lascia passare 2 giorni. Veramente io guardo lì e dico, si vede che lui ha il potere sulla morte, lui può, direi proprio questa parola, lui può fare questo. E poi ancora ricorre il tema del suo amico, no? Quando dice: il nostro amico si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E i suoi discepoli capiscono niente. Beh, signore, se si è addormentato, buon segno, vuol dire che la malattia regredisce, no? Questa è la sapienza popolare. Se un ammalato si addormenta, buon segno. E dice: ma no, non avete capito che egli parlava del sonno della morte. Io poi dopo, mentre predico a voi, dico: signore, dai la fede a me, perché predico agli altri, ma insegna a me, anzitutto a me prete, che addormentarsi nel Signore, come dice l'Antico Testamento, e si addormentò coi suoi padri, dice così dai patriarchi, no? Signore, Signore, non voglio predicarlo agli altri se non sono capace di viverlo io. Prima fallo vivere a me, insegnami a morire bene e santamente. Tu lo sai che io invoco San Giuseppe, patrono della buona e santa morte. E quindi, cari amici, non voglio predicare a voi, voglio fare un esame di coscienza per me. E poi quella risposta a Marta che dice: Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù risponde: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ecco, su questo io credo che uno dovrebbe fare una meditazione intensissima. Io sono. Nell'Antico Testamento, quando Mosè ha detto alla presenza nel roveto ardente: Ma chi sei? Dimmi il tuo nome. Io sono colui che sono. E in un esorcismo, quando io ho chiesto a Satana: Dimmi il tuo nome. Io sono. Va là, scemo, gli ho detto: Io sono è Dio. Io sono Dio, mi risponde. Veramente cose incredibili, no? Io sono, dice Gesù, la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco, io ho bisogno, chiedo a te Gesù, mentre parlo alla mia gente, converti me, Signore. E poi converti anche i miei fratelli che mi ascoltano. Fa che io viva, capisca, goda di questa parola. Io sono la risurrezione e la vita. Se penso a un'indagine che è stata fatta sugli italiani che sono battezzati a più del 90%, mi pare che c'era un 40%, così diceva l'intervistatore, che credono nella reincarnazione. E dico: poverini, non ti è bastata una valle di lacrime che ne vuoi ripercorrere una seconda volta? Ma sì, piuttosto che morire, loro ci stanno a ripercorrere un'altra valle di lacrime. Ma io non muoio, io sono con Gesù, io sono la risurrezione e la vita. C'è il paradiso. Quante volte mi trovo a ripeterlo? C'è il paradiso. Tu l'hai visto? Con gli occhi di Maria l'ho visto. No, no, non è che ho avuto visioni, eh. Però se la Madonna appare a Lourdes, a Fatima e altrove, ed è sempre così bella, così giovane, ma in paradiso si sta bene allora, eh? Non si invecchia più, si sta bene. Quindi Maria è la più bella pubblicità del paradiso. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Io mi fermo su questo, anche se ci sono tante altre cose che possono essere sottolineate in questo Vangelo. Io vedo che finalmente qualcuno, a furia di dirlo, qualcuno mi prende sul serio e sottolinea il Vangelo. Pensate che c'è qualcuno che mi risponde con WhatsApp sulle letture del giorno, vuol dire che ha il messalino quotidiano, ma questo è un uomo, eh? Un uomo, un operaio o un tecnico, insomma, e mi dice certe frasi. Io magari non ho ancora letto le letture della messa, perché celebro messa alla sera, e lui me le manda e dice: Don, che bello, grazie Andrea, tu sai chi sei, eh? E così, e poi ci sono ancora altre cose belle, no? Questo Gesù che comanda: Lazzaro, vieni fuori. Io mi fermo qui per non sciupare questa parola di Gesù. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. O Signore Gesù, concludo questa mia predica con una preghiera, dicendoti: fammi questo dono per favore a me. Ma poiché il sacerdote è un uomo pubblico, è un uomo che va per il mondo annunciando la fede della Chiesa e anche la mia fede, ti dico: Gesù, dona alla mia gente, dona a tutti coloro che ascoltano questo fissare i loro occhi in te, innamorarsi di te. Mi fanno ridere quelli che: Ma ho visto in cielo una nube che sembrava Gesù. Ma sì, ma guardate quello che volete. Io voglio guardare in faccia Gesù. Voglio vedere nei tuoi occhi, Gesù, che tu li fissi nei miei e mi dici, Ambrogio, io sono la tua risurrezione, la tua vita. Se tu credi in me, non morrai in eterno. Grazie, Gesù. E ti chiedo, fallo anche per tutta la gente alla quale sono mandato e fammi tuo apostolo nello spirito. Amen.